Lanzuola, che praticamente era lì di fronte praticamente alla caserma dei carabinieri, c'era una piazzetta in terra battuta, poi c'era questo portico, si entrava lì e dentro c'erano tutte le baracche di Montalepre. Sì, ma io ho conosciuto però quella via che non ci passava neanche il tram, era una via stretta e avevano messo quel bar, quel bar che c'è all'angolo nella curva lì dove c'è adesso la vuota di fronte al distributore, quel bar lì era isolato proprio alla fine e c'era una stradina che si passava soprattutto con la macchina, il tram non ci passava, attenzione, quando ho conosciuto io quel tram, lì il tram non ci passava. Lo so, il tram non faceva quel giro lì, il tram allora prima di tutto c'erano i tram che erano quelli piccolissimi, OM che c'aveva Pani, e il tram, io mi ricordo bene, allora entrava, attraversava via Tiglio di Feno e andava a finire in via Residu. Via Residu entrava per Residu, che c'era il manicomio lì e poi dietro il manicomio c'era questo spiazzale e lì girava il tram, faceva capolino lì e poi ripartiva. Però quello che sto parlando io, di Amendola non c'era niente, addirittura quello della ASL dove adesso fanno il raggio e coso, era dietro il fornitore di Santa Maria. Sì, il coso, lì c'era Tavone, magari tu forse non l'hai conosciuto, dove c'è adesso il parcheggio a pagamento dell'ospedale civile, lì c'era Tavone. E anche dove c'era l'ospedale civile era tutto il Tavone, poi gli è stato espropriato e lui ha venduto tutto, non so come è andato a finire. E arrivava il tram arrivava lì e girava lì in viale, adesso non so che via sia, quello adesso, ma la via Enrico di Nicola, per roba del genere. E saliva lì, e il tram non ci arrivava lì in fondo dove c'è l'ultimo distributore dell'AGI, noi il penultimo distributore. Lì non c'era il pullman e il tram arrivava prima dove c'era Tavone, girava, saliva lì in via Ricchi di Nicola, entrava nella prima della caserma dei carabinieri e girava dove via Tiro di Feno. No, il percorso era quello, e quella stradina che c'era dove c'è il bar di che te succedo io era una stradina piccolina dove ci passava soltanto la macchina, perché c'era una muraglia dove c'è quell'arco famoso di. Sì, già ho capito, sì, ho capito perfettamente, però io mi ricordo, siccome io ci avevo dei parenti lì a Residu, quando andavamo a trovare che prendevamo il tram dalla stazione, andavamo e facevamo tutto quanto l'altro giro, però entravamo col tram, entravamo da via Residu, hai capito, da dove c'è il manicomio, proprio via Residu. Allora quando ci si è passato due, evidentemente lo avevano aperto da poco, anche perché poi i tram erano quei piccolini, perché erano verdi, erano quelli che avevano le due strisce, e gli antichi, non so se tu te li ricordi. Io me ne ricordo, sì, l'ho anche preso, se andavamo pure a Platamona con il tram, allora c'era l'autista e dietro c'era il controllore, là dietro si saliva e davanti si scendeva. Marcello, comunque no, io ti ripeto, io piccolissimo ho girato tutto quattro sasse di pieno di neve, come tanto il giro di tutto sasse me lo sono fatto, ma peccato perché volevo conoscere anche Sassari. Siamo obiettivi, no vabbè, io quell'epoca abitavo in via Rico Costa. Sapevo tutte le magagne, c'era la neve alta, non ci potevamo muovere in quegli anni, poi è nevicato anche qualche anno dopo, nel 61, nel 63, ha fatto nevicate belle, ma non da rimanerci molto la neve, 30 centimetri, non so se tutto ricordo. Ricordo io, ero un ragazzino, però Manzella, mi pare. No, delle suore domenicane era. O domenicane, sì. Cappagatta. Poi, che sotto di quello c'era con l'autospizio di Cappuccini. Non so se tu l'hai conosciuto come l'ospizio, ma penso di sì, perché sei più grande di me. C'era l'ospizio anche lì a Cappuccini. Miglia Tigri. Cappagatta, via che mi sfuga non esiste, però i nomi purtroppo non tutti quanti. No, Preti sì, quello l'ho conosciuto lì, però dove è andato a finire Pedenese no. E Pedenese è nella via centrale, ed è proprio all'angolo con la via principale che attraversa tutto Pedenese, perché sia da su che da giù lo vedi, perché è attaccata a Pirisi. Sulla salita, in quella salitella a sinistra. Cappa di positivo, e come fai la salita a sinistra, che è tutto all'angolo, e c'è un piazzale enorme. E hai giù preso. No, vabbè, io siccome ero un ciclista a quell'epoca, l'unico che mi usava le biciclette era un certo, scendendo in via. In corso Trinità, non so se ce l'hai presente, di fronte alla chiesa, lì subito sulla sinistra giravi e c'era un, adesso non mi ricordo il nome di quello lì, dietro proprio al vecchio castello. Ma io no, io ho conosciuto quello che c'era, allora, se vuoi lasciare la chiesa di corso Trinità, scendivi giù, oltre a passare di San Donato, che lì all'angolo quasi c'era il rifornitore tanto tempo fa dell'Agit, poi un pochettino più giù c'era un negozio che vendeva biciclette, che lavorava il padre e il figlio. Esatto, e quello lì, non mi ricordo il nome di quello, sempre mi dimentico, non so se si chiamava Manca o Masala. E anche io non ricordo il nome, comunque è morto quel giovane lì, giovane, era per lui, ma caipita, giovane grande. Era più piccolo di me, quello che aiutava le biciclette, che era il figlio, era più giovane di me, che era un bel robusto, non so se tu lo ricordi bene, ma lui era un bel robusto, invece il padre era magrolino, il padre rimaneva negozio, lui aveva un magazzino a fianco al negozio, aggiustava le biciclette. Io portavo tantissime volte aggiustando la bicicletta, ma ero un po' stempiato, la testa un po'. Ma non c'era solo lui che aggiustava le biciclette, no? C'era Cosio che aggiustava le biciclette, lì al semaforo. Se lo ricordo il semaforo di questa città giù, di fronte alle suore dove c'era la scuola. Nell'angolino lì, prima di entrare in via Muraglie, la via Muraglie del corso, Trinità, lì c'era un magazzinetto e lì c'era un uomo che aggiustava le biciclette, poi è nato il tabacchino. Sì, lì ce n'era un altro, però questo che aggiustava le biciclette a me era unico, il più bravo che c'era a Sassari, forse era uno dei primi, ragione, perché io come vecchio che aggiustava le biciclette, ce n'era uno che era in Corso Ricco, un po' prima di Petretto, davvero, e c'aveva un magazzino che vendeva biciclette e riparava le biciclette, e poi c'era l'altro vecchio che era lì sempre in Corso Vico, che poi non si chiamava Corso Vico col pezzo, ma si chiamava via, c'è un altro nome, dalla stazione a quello lì, prima di arrivare a Corso Trinità, c'aveva un altro nome, via, e non mi viene il nome, comunque lì ce n'era un altro, un vecchio, ma molto più vecchio di quello di Corso Trinità. Adesso non ce l'hai presente, ma quelli lì secondo me erano i più ricchi, poi veniva lui e dopo di lui c'era Deida e dopo ancora c'era un altro che aggiustava sempre biciclette che era via Pascoli. Sì, quello di via Pascoli era Florenzano, che si è trasferito poi in via, come cavolo si chiama, arrivi dall'emiciclo, dovrei andare all'emiciclo praticamente era. Ah, ho capito, quello che tu sei la trasferita della brigata Sassi, giù, quasi alla fine, quasi all'angolo di emiciclo Garibaldi, appena chiuso dal mare. Esatto, proprio di fronte al mare, di fronte, un po' più su, di fronte, e il Provenzano, quello lì era quello che c'era giù il corso Vico prima, tantissime le famarlo aboli di Subaru. No, te l'ho detto, io ero piccolissimo, però diciamo, senza non è che mi sfuggiva niente, perché ero un bel pezzino bisogno, ero un bel curiaggio, anche mi diceva mamma, tu sei un curiero. E quindi tu non hai conosciuto a Mario Dongo, che era un pezzino bisogno come te Ghisu, e abitava proprio lì, in via Sorsa, in quella zona lì, adesso il punto esatto dove abitava no. Ti ripeto, forse che da ragazzino l'abbia pure conosciuto, però adesso tutti i nomi non mi vengono. Addirittura c'era quel ragazzo che adesso me l'ha detto che è morto, me l'ha detto Natalino, perché ultimamente era molto amico di Natalino. E io l'ho conosciuto andando a scuola, alle scuole di San Donato. Adesso te ne dico un altro se l'hai conosciuto, perché anche lui era uno tra i più prepotenti, Antonello Caso. Antonello Caso? No, Antonello Caso io ne ho conosciuto uno, ma era figlio di un parrucchiere. No, Antonello Caso era un anno più grande di me, era e ancora. Praticamente lui adesso fa l'elettricista lì a Via Grazia dell'Eda, c'è un laboratorio. No, allora non lo so, sapere quello che conosco io, perché io conosco tutta quella famiglia, Caso, Rotto, Tina, Lina, poi Armando mi sembra che dovrebbe andare più. Sai che ci ha dato un bullo in pensione perché ci aveva un sacco di anni di servizio come pompiere. No, quello non lo conosco. E avevano in affitto il padre e ci avevano in affitto il forno di Marrugio che era in via Largo Pazzola. Facciata anche perché c'avevano la parenteria anche in via Torretana. No, questo non lo ricordo, lo sai. Hai visto tanto da Gugurino io. E più su c'era la pasticceria di Salis. Questo l'ho sentita, sì, questa mi sta ricordando, però qui chiedo no. Certo, se non hai conosciuto quel forno mi sembra un po' strano perché chi ci lavorava in quel panificio era anche Bruno Urquis, il culturista. Ma questo Urquis dove abita la Pedolce adesso? No, adesso è morto, però lui abitava salita, c'era quel viottolo sulla destra che dava sulla vallata, in fondo a tutti, alla fine della via, lui ha costruito una palazzina, se non vado errato, tre piani, cioè piano terra, primo piano e secondo piano, che poi davano quasi a livello della strada, perché loro sono partiti da sotto e si sono sollevati. Piano allora è quattro piani, perché poi ultimamente mi è sembrato di averne visto che c'era un appartamento fuori il livello stradale. Guarda, questa non me la ricordo. La Don Luci era famosa, sa, di me lo conoscevano tutti. Beh, ma a quei tempi non è che andarvi a controllare, a dire la verità, cioè queste cose passavano in secondo piano, magari chi conosceva queste cose qui era mio babbo, mia mamma. Vabbè, a quei tempi io ho conosciuto i fratelli Corrieri che facevano, costruivano palazzi, il Planeta, eccetera, eccetera. Poi per quanto riguarda la fabbrica, eccetera, io, siccome facevo il fabbro, conoscevo tutti i fornitori. Noi io andavo da Cesaraccio a prendere il ferro per lavorare lì, la cosa, capito? A mano, e un rubezzino. Cesaraccio, se non vado errato, era quello che c'era in via Torre Tonda, prima della pizzeria. Esatto, proprio lì, e io andavo a piedi a prendere il ferro, si prendeva a mano, negli anni 50, si prendeva a mano, e andavo lì, due verghe, e da lì a piedi, a Ida, ma ti rendi conto a quei tempi? Per tanti anni, tanti, non tantissimo, ho fatto per 3 anni, poi niente, poi si va a studiare, si fa quello che si fa e via. E gatto, no, io come fabbro, a parte i preti, perché andavamo sempre a rompergli le scatole, o per prestarci una pinza, per prestarci una cosa. Andavamo sempre sia da preti, poi ho conosciuto bene quel fabbro, non so se tu l'hai conosciuto, hai visto quando entri in via La Marmora, però non da giù, no, da su, quando è arrivato un pochettino prima di Piazza Tola, c'era quella traversa che andava verso la caserma dei Carabinieri, che prima di dietro c'era la caserma dei Carabinieri. Lì c'era un fabbro. Esatto. Io quello lì l'ho conosciuto per tanti anni. Poi ce n'era un altro, lì in corso, non in corso Trinità proprio, no, un cavo tra corso Trinità e via Le Muraglie, e in uno di quei piazzali dove c'era una scala a salire. C'era un altro lì che era bravo come fabbro, poi c'era un altro sempre in quella zona lì di Zacco su Trinità e Coso, c'era un altro che rimaneva dentro un piazzale, che poi quel piazzale sbucava giù a Coso, a via La Marmora. Quello lì sai chi era? Adesso te lo dico io. Quello era Mario Salis e Gino Salis, che Mario era, Gino era barbuziente, non so se li conosciuti, e sono andati a finire, sai dove, quelli lì? E ci ho lavorato io lì in quell'officina, di fronte al cimitero, dopo il ponte Rosetto, cioè dove il ponte che c'è di Arone, da Santa Maria scendendo c'è il ponte, ecco subito sulla sinistra, fai 50 metri dopo che esci dal ponte, anziché girare per via San Paolo, vai ancora più avanti, ti giri a sinistra che c'era prima, aspetta come si chiama quella fabbrica lì, che adesso ci sono gli zingari, te lo ricordi, facevano la farina. Senamossa. Quello è esatto, Senamossa, ecco, prima però, cioè attaccato a Senamossa, avevamo l'officina sale, Gino e Mario, io lavoravo lì in quell'officina. Ho capito, tu stai dicendo. dicendo, quello che c'è negli appuri di legge c'era un circolo pure stesso. No, il circolo non l'ho conosciuto io, nel 62 ti sto parlando, lì c'era l'officina di sali, facevamo serbatoi, cisterne, si saldava, io ho imparato a saldare lì. Sì, sicuro che era, prima di essere mossa a sinistra. Sì, se tu guardi adesso è un deserto perché c'è l'erba alta, è un cantiere ormai. Allora tu venendo da giù, dalla parte del distributore di Silvetti, salendo, trovi se ne mossa e adesso ci sono gli zingari lì dentro che entrano, oppure i drogati, non lo so, è tutto chiuso, invece il cancello chiuso. Ecco, appena più avanti, sulla destra, sempre, c'è un cortile, tu lo guardi, lì c'era questo ufficio di sale e noi facciamo serbatoi, cisterne, di tutto insomma, punto. Sì, ho capito, scusa, no, io stavo confondendo prima di Atene Mossa e prima di Salisi, se lo ricorderai c'era quella palazzina che dormivano quelli della polizia ferroviaria e a fianco lì c'è un ghiottolino e lì giù c'era un circolo anche. Tranne che il villino, allora dopo se ne mossa c'è quel viottolo che stai dicendo tu, c'è il cancello che io lavoravo lì, c'erano officine che sono tutti è un capannone praticamente, sono delle case alte dove l'officina lì ci avevamo i turni, ci avevamo tutto, facevamo le flange. Ecco, un po' più avanti poi c'è una caserma della ferrovie ferroviarie delle ferrovie dello Stato, una caserma che io ci sono stato anche lì in uno smettino una volta, avevano fatto, perché c'è un amico che polizia autocetta, vabbè, tantissimi anni fa, e più avanti, un po' più avanti c'è un ristorante pizzeria che apparteneva, secondo lui, alle ferrovie dello Stato, ma non alle ferrovie dello Stato, è un privato che si è inventato queste ferrovie, eccetera, eccetera, quindi stava avendo un po' di successo per questo motivo, ma in un privato non c'è niente a che vedere la polizia di Stato. Ma io ho visto sempre poliziotti lì andando, che dormivano lì. Sì, allora ripiloghiamo, dopo l'Elsena Mossa c'è il cancello dove lavoravo io, più avanti c'è questa caserma, è un'ex caserma di carabinieri, quella era una ex caserma di carabinieri che è stata ceduta alla Polfer delle ferrovie dello Stato, capisci? Prima la caserma di carabinieri era lì, quindi è stata ceduta alla Polfer, la Polfer poi non è usufruito perché la Polfer non ha bisogno in quanto la Polfer della stazione autonoma, c'hanno molto spazio lì e quindi si sono trasferiti tutto lì e gli esiscono lì. Più avanti ancora c'è questo ingresso dove c'era questo ristorante di questo coso qua, che diceva il presidente dello Stato, non c'entra niente, e poi c'è il ponte. Gappa, ecco dove c'è quel ristorante che tu stai dicendo, io lì ho conosciuto un circolo che, ripeto, era un ragazzino, cioè per quello, in quel periodo lì c'era un fioraio che gestiva tutto quel giardino, adesso l'hanno tutto tagliato perché hanno messo semafori e contro semafori, però prima quello lì, te lo ricorderai senz'altro, era tutto gestito da un fioraio. Vabbè, questo magari non me lo sto ricordando perché poi sono passati anni e non ci passavo più in quella in quei, in quella zona. No, ma volevo dire che quello lì, se prima era un circolo, ma poi è diventato, non ristorante, è diventato una pizzeria inizialmente, poi è diventato un ristorante, ma con un pretesto che lui diceva che era della polizia di Stato e quindi tutti andavano lì e si dicevano, quando hanno scoperto che questo qui era un privato, mi ha fatto tutto, perché era una stronzata che si è inventato lui, quel tipo lì, che poi lo conosco benissimo. Comunque confermi che prima era un circolo, perché io me lo ricordo, ero un ragazzino quando c'è entrato, era un circolo proprio, un circolo vero e proprio era. Sì, era un circolo, era, è stato un circolo fino al 1977, dopo è diventato un bar, pizzeria, eccetera, eccetera, poi è diventato un ristorante. Ma questo lo so perché io frequentavo questi, prima c'era la caserma dei carabinieri lì, capito? Quella lì a fianco è la caserma, era una caserma dei carabinieri, che la caserma dei carabinieri poi l'ha ceduta alla Polizia di Stato e alla Polfer, ed erano quelli della Polfer che gestivano, erano dormitorio, perché erano in tanti e quindi hanno pensato bene, perché non c'era ancora in via Genova, non c'era la polizia, mi segui? La polizia in via Genova, la polizia stradale non esisteva, quindi tutti quelli della polizia erano convogliati lì perché ci sono le stanze per dormire, erano dormitori. Sì, non so che era un dormitorio, li avevano trasferiti dietro dietro all'ex mercato ortofrutticolo, non so se tu ce l'hai presente, lì c'è una palazzina dove li hanno convogliati tutti lì, perché lì avevano poi smantellato tutto e via. E in campo dove ci sono le officine, come dove c'era la vecchia stazione anche della cosa lì, vicino al mercato ortofrutticolo c'era anche la stazione della linea di Alghero, qui appena più avanti a destra ci sono le officine della Ferrovia dello Stato. Esatto, ma comunque Maria, ci abbiamo fatto una bella una bella ripresinata della storia di Sassari, insomma. Ah, non ho mancato l'occasione comunque per ripristinare altre, mi emozionano queste storie qui a ricordarsi, no, ma mi fa piacere anche che c'è qualcuno che si ricorda anche di questi passaggi vecchi, di queste vecchie storie, insomma, per modo di dire, poi sono cose che non sono passate poi mica secoli, sono appena una quarantina d'anni, 50 anni, nel particolare. Niente, ho avuto un richiamo e quindi dovrò smettere questa modulation e quindi ce la sentiremo eventualmente con più calma per ripristinare magari una cosa più bella, via. Cosa ne dici? In capo, come mancherà occasione, vedi tu. Zia Ghidi, Sassarisu, Zia Mesani, allora si vede sempre da lui. E poi siamo Sassarisi in chiave, io penso, da parte di mio padre, poi non so se mi è antenato, ma io credo che mi è antenato, perché un cognome è abbastanza sassarese, non te lo posso dire adesso, ma se ci troviamo in verticale io te lo dirò. Capo, non c'è problema, davvero, no, anche io sono in chiave, perché mia nonna era di Sassari, mio nonno era di Sassari, mia madre di Sassari e mio padre era nativo di Sassari, però mio padre qualcuno mi ha detto che è originario di Sosso, perché il mio nome a Sosso ce ne sono tanti. E beh, quello succede in ogni famiglia, che magari tuo padre e magari i genitori di tua mamma, no, io ad esempio i genitori di mia mamma sono provenienti da produttore, bisogna vedere se poi da Sassi sono andati a venire produttori e poi sono tornati qua, chissà, ci sono questi scambi, però sempre la zona è questa, insomma. Capo, no, io sono nativo di Sassari, mio padre è nativo di Sassari, mia nonna è sassarese, mio nonno è sassarese, e niente, però la discendenza di mio padre, cioè i miei nonni da parte di babbo sono discendenza di Sosso. Praticamente i tuoi bisnonni, che si parla del 1800. I miei bisnonni, dice che da parte di mio padre che sono di Sosso, cioè, mi hanno detto, io non sono mai andato a guardare l'albo genealogico in comune, però mi hanno detto che dal nome sembra che sia discendenza di Sosso. Vabbè, là, io ti lascio con la buonanotte, 244, una buona giornata per domani, ci sentiamo alle prossime, così ci ricorderemo altre cose della nostra fanciullezza. Grido. Va bene, dai, Maria, buonanotte, tante cose belle, buon proseguimento di nottata e tante cose belle ancora. Alle prossime, ciao ciao. Ciao ciao.